cartellone di Elisabetta Fiorito. Buongiorno, buongiorno. In questo primo sabato di carnevale ci occuperemo in questa puntata anche del famoso Carnevale di Venezia. Però subito vogliamo parlare dell'Amleto di Alessandro Preziosi. Alessandro Preziosi che abbiamo visto in televisione nella fiction su Sant'Agostino e che è in scena almeno fino a questo weekend al Teatro Quirino di Roma con un tutto esaurito e poi andrà dal 9 al 14 al Teatro Gaetano Donizetti di Bergamo per finire questa performance che è durata più di 2 anni. Un Amleto molto particolare, ma noi per saperne di più abbiamo proprio incontrato Alessandro Preziosi nei camerini del Teatro Quirino di Roma. Il mondo è fuori di squadra, è una maledetta noia esser nato per rimetterlo in sesto. Dietro il Teatro Quirino, Alessandro Preziosi, tutto esaurito per Amleto, però intanto durante il pomeriggio insegna o fa degli stage per i ragazzi di un'università. Ci vuole spiegare? Ho avuto l'onore e la fortuna di essere stato segnalato come attore che si è distinto per la continuità, la costanza delle produzioni fatte fino ad oggi, per essere il direttore artistico di una scuola già esistente, una scuola di formazione artistica più genericamente, non invece semplicemente di formazione degli attori nello specifico. E questi pomeriggi sono regalati sia a loro che a me per fare il punto della situazione su un dramma così interessante, anche solo per parlarne, e per cercare di capire come attorialmente lo si può affrontare nei 2 monologhi specifici che sono relativi al monologo dell'attore di Amleto, quando Amleto vorrebbe essere alla pari dell'attore capace di agire con quella spregiudicatezza eccetera eccetera, e dall'altra parte la pazzia di Ofelia, che sicuramente si conosce meglio. Attraverso questi 2 piccoli baluardi di teatro classico riuscire a capire con i ragazzi studenti del terzo anno come si può arrivare a confezionare un proprio monologo partendo però dal presupposto contrario al monologo, cioè quello che lo si comunica agli altri, di modo che quando ci ritroviamo da soli riusciamo a parlare con noi stessi dopo averlo comunicato a qualcun altro. Insomma, questo è un piccolo gioco così di prestigio. La scuola si chiama Link, ecco, se no. A proposito del monologo, l'attore poi si deve sempre confrontare col famoso monologo del terzo atto, con l'essere o non essere. Quali sono un po' stati i suoi maestri in questo monologo, tra Laurence Olivier, per esempio, e Vittorio Gassman e Mel Gibson, sempre Vittorio Gassman. Tra Vittorio Gassman, nell'attore che interpretava l'Amleto di Peter Brook, forse più quello di Peter Brook, Carmelo Bene, tutti li ho, anche perché la complessità di quest'opera, cioè di quest'opera che è l'essere o non essere, necessita una serie di iniezioni di diversi medicinali che permettono alla soluzione filosofica di essere quanto più chiara a te stesso, sia nella sostanza, e credo di averla capita, ma nella forma, cercare di renderla più quotidiana possibile. Solo capendo cosa c'è di classico dietro queste grandi interpretazioni, Laurence Olivier o la stessa versione in inglese o addirittura quella innovativa e futurista di Carmelo Bene, cercare quale poi in questa divisione di settori, di specie, di generi, di espressione, qual è quella che ti si confà di più. E io li ho messi insieme per cercare la mia, che è quella sostanzialmente legata alla viltà. Essere, non essere, qui sta il problema. Cos'è più degno? Patire gli strali, i colpi di balestra di una fortuna oltraggiosa, o prendere armi contro un mare di affanni e contrastandoli por fine a tutto, morire, dormire, non altro, e con il sonno poter dire che si è messo fine alle fitte del cuore, ad ogni infermità naturale alla carne. È il momento clou, cioè come un'opera quando, non so, Radames deve cantare Celeste Aida, come un'opera nel momento clou, magari, quel momento. No, io trovo che questa sia, almeno nello spettacolo per come lo abbiamo confezionato noi, sia un passaggio profondamente fisiologico, cioè si passa dalla scena con Polonio, nel primo incontro tra la strategia politica e la cialtroneria dell'uomo di corte politico e il ragazzo che finge la pazzia, fino alla conclusione, alla fine di questa scena dialetticamente, di trovarsi davanti ad un Amleto che dice: amico mio, potreste togliermi tutto? Amico mio, potreste... Amico mio, com'è? Aspetta. Amico mio, non potreste prendervi niente da cui mi separi più volentieri, cioè la vostra presenza, tranne la vita. E in questo gioco di parole Amleto cade fisiologicamente in un dubbio. È meglio rimanere qui o levarsi proprio il pensiero? E quindi questo gancio rende la scena precedente funzionale all'essere o non essere, che a sua volta è funzionale. Quindi non c'è un momento topico, un momento di spettacolarizzazione o dove tutti ci fermiamo ad ascoltare. Proprio essere o non essere è il problema. Quindi con quella naturalezza che non certo si addice alla complessità del messaggio filosofico dell'essere o non essere, ma perlomeno mettere lo spettatore nelle condizioni di ascoltare uno dei tanti tasselli di questa storia. Agostino Lombardo, che ha insegnato letteratura inglese all'Università di Roma per molto tempo, diceva che l'essere o non essere è poi lo spartiacque tra l'uomo medievale e l'uomo nuovo che non ha certezze. È vero, anche se è profondamente illusoria questa certezza. È un'illusoria certezza perché viene rimandata immediatamente a una constatazione di rassegnazione, cioè il problema non viene risolto, viene constatato. E quindi, certo, è di spartiacque nei presupposti, ma non certo nel risultato. E questa interpretazione invece televisiva di Sant'Agostino, anche lui un uomo di dubbi, che però poi a un certo punto li risolve. Ma infatti io dico che Agostino dà le risposte e Amleto fa le domande, perché invece quello che ci arriva di Agostino è sì il dubbio, ma anche una soluzione abbastanza complessa, ma alla fine comunque accessibile. E Alessandro Preziosi è più Amleto o più Agostino? Alessandro Preziosi è proprio Preziosi Alessandro. Esaurito al Teatro Quirino, intitolato a Vittorio Gassman, che come abbiamo sentito nell'intervista è stato poi il suo esempio, l'esempio per Alessandro Preziosi. Ricordiamo che Alessandro Preziosi andrà sempre con Amleto dal 9 al 14 febbraio a Bergamo al Teatro Gaetano Donizetti, un modo per conoscere di nuovo questo attore che abbiamo visto recentemente nella fiction Rai su Sant'Agostino. Dormire, sognare forse. Ecco il punto, perché nel sonno di morte quali sogni intervengano a noi sciolti da questo viluppo, è pensiero che deve arrestarci. Ecco il dubbio che tiene in vita tarda età gli infelici, perché chi vorrebbe subire la sferza e gli sputi del tempo, i torti dell'oppressore, contumelie dall'uomo arrogante, pene per l'amore sprezzato, remore in luogo di legge, gli uffici e la loro insolenza, e gli oltraggi che il merito paziente ha inflitti dalla iniquità, quando egli stesso, nient'altro che con un pugnale, potrebbe far sua la pace. Cartellone. Signore e signori, devo riferirvi qualcosa di molto grave. Sembra incredibile, ma le osservazioni scientifiche e l'evidenza stessa dei fatti inducono a credere che gli strani esseri atterrati stanotte nella fattoria del New Jersey non siano che l'avanguardia di un'armata di invasione proveniente da Marte. La battaglia che ha avuto luogo stanotte a Grover's Mill si è conclusa con una delle più strabilianti disfatte subite da un esercito nei tempi moderni. Insomma, i marziani ci stanno invadendo, i marziani ci stanno invadendo. E qui abbiamo scherzato, abbiamo ricordato la famosa notte del 30 ottobre del 1938, fatto quando il grandissimo Orson Welles annunciò che i marziani avevano invaso la Terra. Il problema è che poi i terrestri ci credettero. E per ricordare il magnifico genio cineasta, sceneggiatore, scrittore, che cos'altro, noi possiamo andare questa sera a Bologna, alla Sala Interaction, all'Arena del Sole, dove c'è Orson Welles Roast, scritto da Michele De Vita Conti e Giuseppe Battiston, con Giuseppe Battiston. Allora, che cosa accade in scena? Buongiorno a Giuseppe Battiston. Buongiorno a tutti. Che cosa accade in scena? Anche là atterreranno i marziani, evidentemente. C'è una citazione, c'è una piccola parte dello spettacolo che riguarda proprio la guerra dei mondi, ma in realtà lo spettacolo è un breve excursus che abbiamo scelto Orson Welles perché porta avanti. Ci sarà la figura di Welles che si racconterà per il piacere proprio e per il piacere degli spettatori. E la formula scelta è quella del roast, che è una sorta di affettuosa presa in giro che i personaggi famosi fanno tra di loro in occasione del compleanno di uno, ad esempio. Gli altri lo prendono in giro con delle battute in forma di elogio al contrario. Ecco, quindi abbiamo pensato che Welles, nella sua immagine quasi mitologica, gigantesca, potesse essere allo stesso tempo vittima e carnefice di se stesso. In questo senso abbiamo deciso di chiamarlo Roast, e quindi questo sarà più o meno per grandi linee la sostanza dello spettacolo. Ecco, Battiston, voi praticamente fate delle riflessioni sul cibo, poi vi spostate su Falstaff, sull'Inghilterra, su Shakespeare, insomma, su varie cose. Beh, sul teatro sostanzialmente, che fu la prima grande passione di Welles. Lui appunto nel 1938 mise in scena, nel 1937, chiedo scusa, mise in scena un Macbeth, un'edizione del Macbeth che pare fosse straordinaria. Un anno dopo appunto registrò la Guerra dei Mondi alla radio, e invece che metterlo in galera per procurato allarme, gli diedero un contratto a Hollywood. Noi facciamo un excursus della storia di Welles, facciamo fare a Welles un excursus della propria storia, partendo dal teatro per poi arrivare al cinema, al rapporto coi media, al significato del lavoro dell'attore. E sono tutte riflessioni di proprio Welles che noi abbiamo riportato, su cui noi abbiamo costruito una drammaturgia. Allora, ricordiamo Orson Welles Roast, che come dice lei è una sfottò, ma anche vuol dire arrosto, e sappiamo che Orson Welles era una buona forchetta, e con Michele De Vita Conti e Giuseppe Battiston. Abbiamo sentito Giuseppe Battiston, ricordiamo, alla Sala Interaction Arena del Sole di Bologna questa sera, ma poi andrà a Rubiera, alla Spezia, ad Arezzo, a Parma, a Novellara, a Soresina, a Pavia, a Gallarate, insomma una lunga tournée per finire anche a Torino, a Crotone, insomma vedo che state in tournée fino a marzo, giusto? Fino a fine marzo? Fino alle prime di aprile. Ah, fino alle prime di aprile, per tutto il nord, ma anche vedo anche il sud, quindi intanto le tappe più importanti: Bologna, Rubiera, La Spezia, Arezzo, in questi giorni a seguire, Orson Welles Roast, e noi sentiamo un piccolo brano dello spettacolo. Dico subito che stasera non farò un arrosto inteso in senso tradizionale. E non credo assolutamente che Amleto sia una brava persona, un grande personaggio, sì, ma non una brava persona. E comunque non è mai creduto nel rispetto per le intenzioni dell'autore. Pensa processo di Kafka, per esempio, dove K non è come Kafka si ostina a cercare di farci credere per le pagine e pagine, una povera vittima innocente, ma è colpevole colpevole di ogni cosa. Arrivavo trafelato, salivo di corsa al decimo piano, entravo correndo nella sala di registrazione, chiedevo all'assistente di studio qual era il mio personaggio e quel, passandomi fogli, mi sussurrava: un vecchio commerciante cinese. Dai deliri nazisti di qualche predicatore fino alle prime pubblicità, la gente credeva incondizionatamente a tutto quello che sentiva. L'ha detto la radio. E allora mi dissi: facciamo qualcosa di straordinario, facciamo arrivare i marziani. È vero che la gente crede a tutto, ma soltanto gli americani potevano credere ai marziani. E adesso parliamo di un'iniziativa particolare che si è aperta ieri a Campsirago in provincia di Lecco. Da ieri, infatti, per 10 weekend Campsirago diventa un po' un centro, un polo di attrazione per il teatro, ma anche per moltissimi eventi. Michele Luosi, direttore artistico di Campsirago 2010, Scarlattine Teatro, residenza di Monte Brianza. Spero di aver azzeccato tutto. Buongiorno. Buongiorno, sì, pensiamo che diventi un luogo abbastanza interessante Campsirago, in quanto arriveranno tantissimi artisti. Ieri abbiamo iniziato con la Scolmegna dell'Atria, che è sicuramente una delle più grandi attrici a livello nazionale, in un posto molto particolare perché è un posto in mezzo ai boschi in cui il pubblico sceglie di venire e gli attori o i musicisti scelgono di venire perché hanno la possibilità di incontrarsi in un contesto che, oltre ad essere molto suggestivo, è anche particolare. È un posto che ha una tradizione lunghissima di spettacolo, con festival che ormai da alcuni anni esistono sull'area e a cui partecipano tantissime persone che vengono da tutta la Lombardia, ma anche dall'estero e anche soprattutto dal territorio nazionale, insomma. Quindi siamo particolarmente orgogliosi di far partire anche una stagione invernale in questo posto, che è una residenza teatrale, quindi un luogo per gli artisti in cui venire, stare, fermarsi, produrre nuove opere teatrali piuttosto che di cinema o di arte contemporanea e di danza, e poi presentare il proprio lavoro a un pubblico che davvero è molto eterogeneo. Quindi ci sono moltissimi spettacoli, 60 eventi nel paesaggio, no? Anche un po' coraggiosi siete, perché in mezzo all'inverno andare in un bosco a sentire uno spettacolo è una cosa molto suggestiva, ma anche abbastanza dura. Certo, sì, ma in realtà non adesso, per esempio, l'evento di ieri sera, quello di stasera l'abbiamo fatto al coperto, anche perché fuori ci sono meno 6 gradi o meno 8 gradi di notte, quindi in realtà abbiamo anche degli spazi al chiuso. Sicuramente il pubblico però deve fare un percorso nel bosco per arrivare a Campsirago, e sta in mezzo appunto alle valli, sta in mezzo agli alberi, sta sotto la luna e sotto le stelle, quindi questa cosa sicuramente è una cosa che, rispetto alla fruizione normale di uno spettacolo teatrale in una sala cittadina, ti metti in una condizione, in uno stato d'animo che è completamente diverso. Quindi quando arrivi nel posto in cui poi lo spettacolo avviene, sia gli artisti che gli spettatori, è come se fossero un po' parte di una stessa comunità, e questo è una delle magie, diciamo, di Campsirago in generale. Poi, quando il tempo lo permette, facciamo spettacoli proprio all'aperto, quindi in primavera, in estate, anche in autunno, la tendenza è quella di portare o i palchi all'esterno oppure di fare spettacoli proprio nel mezzo del bosco, nel mezzo della natura. Chi viene a Campsirago in questi 10 weekend che sono partiti da ieri deve portare assolutamente le scarpe da montagna, e poi durante il percorso, non so, offrite un po' di grappa per riscaldare le persone, un po' di grappa buona italiana. Allora sì, è meglio venire con le scarpe da montagna, nel senso che comunque se c'è ghiaccio per terra almeno uno evita di scivolare, però vabbè, in realtà è più per i percorsi appunto primaverili, è meglio avere le scarpe da montagna, perché se si va per sentieri e c'è il pantano almeno uno evita di infangarsi completamente le belle scarpe magari da città. Però al di là di questo, offriamo sicuramente da bere, nel senso che abbiamo sia delle ottime birre fatte con produzione artigianale che offriamo al pubblico, che anche poi grappa o whisky, io amo particolarmente whisky, per cui tendo a offrire whisky comunque, anche grappa italiana. Ai ai ai, come? Organizza la rassegna in Italia e offre il whisky, mannaggia, mannaggia, non c'è più religione, come offrire la vodka? Va bene, scherzi a parte, noi ringraziamo anche per essere stato con noi e essere stati i nostri scherzi Michele Losi, direttore artistico di Campsirago 2010. Ricordiamo, 10 weekend con 60 eventi nel paesaggio invernale della Brianza, in provincia di Lecco, che comprende spettacoli, concerti per adulti e bambini, mostre d'arte, laboratori di formazione e ospitalità di artisti internazionali. Si è aperto ieri e si chiude tra ben 10 weekend, quindi faremo forse in tempo a vedere l'inizio della primavera, Michele. No, no, assolutamente, vedete l'inizio della primavera, ma c'è già una programmazione che poi in realtà arriva fino al 31 dicembre, nel senso che noi abbiamo l'idea di fare una grande festa di Capodanno a Campsirago con artisti, musicisti e la grappa in quell'occasione. La grappa in quell'occasione, grazie. Allora, tutti a Campsirago durante il weekend, per chi si trova in Lombardia e anche per chi si trova nelle vicinanze, per ben 10 weekend. Cartellone di Elisabetta Fiorito. In questa epoca tocca quindi che anche Edipo sia stanco. Sì, noi pensiamo che Edipo sia sempre giovane, invece anche oggi a Milano, per esempio, al Teatro Verdi, Marco Grossi interpreta proprio Edipo stanco fino al 14 febbraio. Ma perché Edipo è stanco, Marco? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Edipo è stanco, Edipo è stanco, Edipo rappresenta il mito. Anche nella descrizione aristotelica della tragedia, e viene preso ad esempio appunto il mito di Edipo, perché è un po' emblematico di tutta una tradizione classica, ed è stanco oggi perché l'uso che se ne fa, i riferimenti che se ne fanno sono forse costantivi, forse hanno bisogno di un rinnovamento, e è quello che io ho provato a fare, molta modestia, umiltà assolutamente, però è quello che ho provato a fare, una rilettura del mito attraverso una chiave comica della commedia, prendendo in prestito la maschera e quindi la tradizione italiana della commedia dell'arte. Quindi è un Edipo che ha, da una parte io vedo Sofocle ovviamente, Edipo Re, Edipo a Colono, poi c'è Eschilo, i sette contro Tebe e Sfinge, e poi c'è la maschera italiana. Quale maschera ha scelto? Io non ho fatto un lavoro sulla maschera, diciamo, così come è stata codificata già nella tradizione della commedia dell'arte. Ho provato a immaginare un antenato Zanni della commedia dell'arte, il riferimento è quello dello Zanni e quindi dell'Arlecchino, del Pulcinella, dei vari Zanni appunto, queste maschere grottesche della commedia dell'arte, però ho provato a immaginare un antenato, cioè una figura che avesse dei movimenti e degli stili espressivi ancora non ben codificati, e quindi un po' più grezza, un po' più legata alla terra, all'elemento della terra da cui nasce, da cui emerge, anche durante lo spettacolo, perché comunque lo spettacolo sarà il palcoscenico tutto sparso di terra, proprio per ricordare questo richiamo all'elemento. E anche la maschera nasce proprio come un'eruzione vulcanica dalla scenografia. Ecco, un monologo quindi. Un attore a un certo punto sente il bisogno di confrontarsi con il monologo? Sì, sente il bisogno e sente la necessità, e purtroppo sotto alcuni punti di vista c'è anche costretto. Mi spiego brevemente. Il confronto, il bisogno è dovuto al fatto che comunque è una prova d'attore, diciamo, di teatro totale. Io mi sono confrontato con questo spettacolo da un punto di vista recitativo, ma anche da un punto di vista di scrittura, anche da un punto di vista di costruzione delle scenografie, di trasporto delle scenografie proprio totale. Ho voluto provare da solo a costruire una macchina teatrale che reggesse sulle mie spalle, ed è anche questa una necessità, purtroppo, perché oggigiorno, a livello diciamo poi più prettamente e concretamente economico, spesso si è costretti a lavorare da solo perché i costi sono alti e quindi si riescono ad assorbire, ad attenuare soltanto con mettendosi da soli, ecco. mettendosi da soli. Però ecco, a quel punto l'attore deve essere molto bravo perché deve catturare il pubblico. Quanto dura lo spettacolo? Lo spettacolo dura un'ora ed è un'ora in cui praticamente questa maschera, questo folletto, questo demone che io a cui io presto il mio corpo non fermo un attimo, non sta zitto un attimo, e quindi è assolutamente molto faticoso, richiede una preparazione pugilistica. È uno spettacolo che possiamo dire richiede una preparazione pugilistica con largo tempo di anticipo, molto allenamento, molta attività fisica, dieta equilibrata, proprio assolutamente la preparazione di uno sportivo che dedica un atleta alla sua gara, ecco. Però allora non è così semplice poi fare l'attore. Allora ricordiamo Edipo Stanco, Marco Grossi, fino al 14 febbraio al Teatro Verdi di Milano, e poi come ci diceva fuori onda, forse lo vedremo a Roma, magari durante l'estate romana. Sì, ci stiamo preparando per i festival estivi. Roma è una delle tappe che probabilmente toccheremo, e poi stiamo lavorando anche per la stagione prossima. Intanto Milano, Teatro Verdi, fino al 14 febbraio. Grazie. Grazie. Ed entriamo nell'atmosfera veneziana con il Rondò Veneziano, ma soprattutto entriamo nell'atmosfera carnevalesca di Venezia, perché oggi pomeriggio si apre quello che forse è il carnevale più importante in Italia. Attenzione, non voglio suscitare le ire di Viareggio, però insomma forse è quello lì più elegante, in maschera. Andiamo in questa bellissima città, Venezia, con Piero Rosa Salva, l'organizzatore del Carnevale di Venezia 2010, Sensation 2010. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori, buongiorno. Più che l'organizzatore, sono il presidente della società che fa capo al Casinò e al Comune di Venezia, che coordina l'organizzazione. Ovviamente è un evento così articolato al quale concorrono decine di persone, e soprattutto che negli ultimi anni vede la direzione artistica di Marco Balis, che appunto ha elaborato questo format Sensation. Sensation, allora si apre oggi pomeriggio con che cosa il carnevale? Ma si apre con troppe cose per dirle in pochi minuti, ma perché il carnevale è distribuito nella città di Venezia, nel suo cuore storico, con questa articolazione dei cinque sensi più la mente. I cinque sensi, come è noto, quindi olfatto, udito, tatto, gusto, vista, no? E perché questo? Perché Venezia, come è noto, non ha i quartieri, ma è divisa in sei sestieri, così si chiamano. E allora nacque 3 anni fa questa idea di caratterizzare ogni sestiere con una proposta, e quindi i cinque sensi i nostri sensi più il cuore, anzi la mente, a San Marco. Però il carnevale è distribuito anche nelle isole della Laguna, nella terraferma veneziana, in un vasto territorio, quindi troppe sono le cose da dire. Direi che però non possiamo non segnalare l'apertura ufficiale, che è alle ore 21 con Ferruccio Soleri, che in piazza San Marco aprirà il carnevale con il suo straordinario Arlecchino. Come è noto, Ferruccio Soleri è oggi considerato al mondo il più grande interprete di Arlecchino. E poi domani l'esplosione delle tradizioni veneziane con le due grandi appuntamenti del volo dell'angelo, che sarà Bianca Brandolini Dadda a scendere dal campanile, come l'anno scorso la signorina Missoni, come 2 anni fa Federica Pellegrini, e così via. Nel pomeriggio la grande festa delle Marie, il corteo delle 12 donzelle, che ricalca una vecchia festa veneziana, una leggenda, con 12 donzelle rapite dai pirati, e poi bisogna venire a Venezia per scoprirlo. Nel frattempo abbiamo anche la festa veneziana a Cannaregio, in Canal Grande, una sfilata di imbarcazioni veneziane addobbate, mascherate, insomma troppe cose. E io suggerirei agli radioascoltatori di contattare il nostro sito carnevale.venezia.it, dove c'è tutto il programma. Certo, infatti io ho aperto il programma e già ho visto una cosa molto molto particolare, che solo a Venezia queste cose esistono, perché c'è scritto Terraferma, poi San Marco, Cannareggio, tutti quanti gli appuntamenti segnalati. Come quando parliamo con gli amici sardi che dicono il continente, no? Ecco, per noi no, per la verità il territorio veneziano, come è noto, è molto ampio. Anche il comune di Venezia abbraccia una vastissima area, di cui il centro storico lagunare è ovviamente una gemma preziosa, ma il carnevale è distribuito su tutto il territorio ed è distribuito in questi 11 giorni. E a riguardo vorrei riprendere un'osservazione iniziale che lei ha fatto. E naturalmente noi rispettiamo e abbracciamo tutti gli amici che nelle varie città. Certo, Viareggio, adesso so che oggi e che quest'anno vi siete addirittura gemellati con Roma. Certo, gli amici di Roma ci hanno chiamato, hanno rilanciato lo scorso anno un'ipotesi di carnevale, quindi noi ben volentieri collaboriamo e pensiamo che anche queste siano eccellenze italiane che devono essere promosse. Volevo solo dire che il Carnevale di Venezia, con il massimo rispetto per tutte le altre eventi analoghi, ritiene solo di avere una caratteristica, che non è un merito ma che dipende dalla nostra città, è forse l'unico che può essere vissuto e non guardato. Ecco, dappertutto, compreso Rio de Janeiro e così via, è ovvio, si organizzano grandi spettacoli e poi ci sono degli spettatori, naturalmente. Ecco, Venezia consente a tutti di essere protagonisti, perché tutto è organizzato in modo che il turista, ma anche il veneziano e chiunque venga qui, non sia solo uno spettatore, ma venga pienamente coinvolto negli eventi, e anche perché la città ovviamente si presta in questo senso. Senta, un'ultima domanda, perché noi ci ricordiamo Venezia, Casanova, poi c'è questa atmosfera sempre un po' con queste maschere bellissime che i veneziani indossano per il carnevale, che richiamano poi il Settecento soprattutto, no? Quando è nato il carnevale? Beh, il carnevale moderno nasce 30 anni fa per rilanciare un turismo invernale che allora era assolutamente assente, per cui la città viveva i suoi periodi estivi, le grandi iniziative, la Mostra del Cinema, la Biennale di Venezia, ma non aveva un turismo invernale. Quindi nacque una trentina d'anni fa, recuperando appunto le antiche tradizioni, ma essenzialmente questo successo, questo notissimo carnevale settecentesco. Ovviamente Venezia, grande capitale europea, città di mare, città multietnica, aveva già programmato e nelle sue tradizioni questo periodo, esaltava questo periodo di carnevale dove nobili e meno nobili e la plebe si mischiavano, ed era l'epoca, il periodo della trasgressione, così che a Venezia ovviamente anche allora trovava il massimo trionfo, e devo dire che poi naturalmente è andato in declino, come le sorti stesse della Serenità. Certo, come tutte le sorti dell'Italia, ma noi come Venezia, e speriamo tutta l'Italia, stiamo risorgendo, almeno così ci auspichiamo. Allora, da oggi fino al 16 febbraio, quando è martedì grasso, e sappiamo poi c'è mercoledì di Quaresima, l'inizio della Quaresima, il mercoledì delle ceneri, però fino al 16 febbraio, come vuole l'antica festa pagana, il Carnevale di Venezia. Abbiamo sentito Piero Rosa Salva, organizzatore di Sensation 2010. Ricordiamo che potete trovare tutti gli appuntamenti a www.carnevale.venezia.it, il programma completo per vivere il Carnevale. Grazie. Vi aspettiamo, buongiorno a tutti. Cartellone. Rosana, puoi affacciarti per favore? Chi è? Sono io. Ah, voi. Vorrei parlarvi. Andatevene. Vi prego. Andate via. Ho capito che non li amate più. Ma accusate di non amarvi. Ma accusate di non amarvi. Quanto più vi amo, orso. Quanto più vi amo, orso. Orso, orso. Orso, orso. Cosa? L'amore è il mio animo. L'amore è il mio animo. L'ho preso per culo. L'ho preso per culo. Oh, ma te sei bello, ma non balli, mio mio, eh. Ma perché parlate così lentamente? Ma la vostra immaginazione forse soffrirà. Perché? Perché? Oh, un attimo, mica escono così a mezzo secondo, no? Perché? Le mie parole salgono? Le mie parole salgono! Le vostre scendono! Le vostre scendono. Per questo corrono veloci. Per questo corrono veloci. Come fulmine non temporale. Come? Come fulmine non temporale. Fulmine sopra corviale. Questo proprio ti cocci. Ma che corviale? Stavo in Francia, che stavo a Roma. Temporale, temporale, è che Cirano è una donna? Perché la interpreta Vanessa in questa rappresentazione scolastica. Che cosa succede sul palcoscenico? Il professore viene richiamato a fare uno spettacolo. Il professore viene richiamato, viene sì, cioè una rimpatriata, diciamo, e Leandro rientra in questa, cioè in questa rimpatriata, si insieme ai ragazzi per salvare un teatro decidono di allestire appunto il Cyrano de Bergerac e insomma, visto che comunque i ragazzi non sono tantissimi, fatto sta che, voglio dire, in Vanessa riconoscono quella grinta necessaria per fare Cyrano e quindi lei si ritrova a costruirsi e inventarsi questo personaggio. La domanda è, Cyrano è un uomo? Boh, Cyrano è tutto, cioè Cyrano non ha sesso, è chi c'ha voglia di vincere, di lottare, chi soffre in silenzio, insomma Cyrano è un sentimento molto forte che in ognuno di noi e questo credo che sia un bel percorso proprio a livello personale, no? Umano, attoriale. E Vanessa invece che cosa fa nella vita reale? Nella vita reale sempre del palcoscenico ovviamente. Vanessa è diventata una... Vanessa insomma aveva dei trascorsi un po' insomma discutibili e niente, lei ha trovato la sua forma d'arte facendo le mesh, è diventata una brava parrucchiera specializzata in mesh e quindi realizza sogni piccolissimi delle sue clienti e quindi niente, insomma cede volentieri poi il personaggio, l'interpretazione di Cyrano a Leandro. E sentiamo poi i rumori dietro il palcoscenico al Teatro dei Servi fino al 14 febbraio, ricordiamo Cyrano, dacci una mano. Leandro, nel frattempo, che è il sequel di Romeo e Giulietta Paccavano e Come. Allora, in Romeo e Giulietta Paccavano e Come, Leandro era un professore che doveva praticamente mettere su uno spettacolo teatrale. Adesso Leandro chi è? Dunque, Romeo e Giulietta, lui era un professore attore, in realtà era un attore che si trova a tenere un corso di teatro. Sono passati 6 anni, la sua vita è radicalmente cambiata, almeno lui crede, perché disilluso dall'ambiente teatrale ha deciso di intraprendere una carriera da agente immobiliare. Naturalmente, mentre nell'altra commedia era lui che spingeva i ragazzi al teatro, stavolta diciamo avviene il contrario, saranno i ragazzi a far ritornare lui al teatro, quindi è un percorso inverso che Leandro fa e quindi non si sa poi se alla fine lui continuerà a fare l'agente o l'attore. Comunque anche lui ritrova il suo Cyrano, perché poi in realtà il messaggio dello spettacolo è quello che ognuno dei ragazzi, attore compreso, cerca la sua parte di Cyrano, che è una parte di libertà, di conquista, di lotta contro tutto e tutti. Ma a un certo punto Vanessa Cyrano si innamora però di Cristiano, quindi ci sta Rossana che è innamorata di Cristiano e poi anche Vanessa Cyrano che è innamorata di Cristiano, perché poi il fatto che tu sia donna però fai la parte di un uomo a un certo punto... No, infatti è un casino, cioè veramente è un delirio pazzesco. Sì, abbiamo trovato questa chiave che può essere divertente, insomma, per un pochettino scimmiottare il senso appunto di vivere un amore nascosto, Di non esprimerlo. E quindi Vanessa in realtà interpreta Cyrano, Vanessa allo stesso tempo è Vanessa, quindi lei è segretamente innamorata di Cristiano, che in realtà è Giovanni, che ha avuto precedentemente una storia con Roberta, che invece fa appunto Rossana, e quindi è tutto così. E che fa l'attore di fiction lui, poi, no? Lui ha fatto il Grande Fratello. Esatto, lui è il VIP della situazione, che torna e insomma intraprende questo percorso con noi. Allora, Cyrano, dacci una mano fino al 14 febbraio al Teatro dei Servi di Roma e poi speriamo che poi usciate dalla città e magari lo portate a Milano con questi accenti. Cyrano a Milano ci dà una mano. 5 cimici cilani cinquantavano cinese tra le ciglia circonflesse della cicciata delle cipresse che circondavano le cime e cianciavano 10 500 sono i cigni della celebre cicuta. Dai, dai Roma, dai! Quel gufo con gli occhiali, che sguardo che ha. Lo prendi, papà? Sì, la lepre in tu. Che corse che fa? Lo prendi, papà? Sì. Quel canarino si è ferito e non lo lascio qua. Me lo prendi, papà? Lo prendo se vuoi, così guarirà. E facciamo guarire gli animali, o almeno cerchiamo di occuparci di animali che sono in pericolo di estinzione. Se ne occupa il Museo Civico di Zoologia di Roma, perché ogni giovedì, ogni 15 giorni, è iniziato il 4 febbraio questo giovedì, ma prosegue l'11 febbraio, il 25 febbraio, insomma fino al 3 giugno, tornano gli happy hours zoologici. Claudio Manicastri del Museo Civico di Zoologia di Roma ci spiega che cosa fate. Vi vedete al museo alle 18 e si parla di animali. Praticamente abbiamo ricostituito in una sala del museo, là che disfacciamo ogni volta, un bar in cui praticamente si discute di certi argomenti. Quest'anno è l'anno della biodiversità, cioè del perché, del per come, di come mantenere la diversità delle specie animali, che sono alcuni milioni, e di quelle vegetali, che sono alcune migliaia, e ci sono vari ricercatori che faranno un breve intervento per lasciare appunto al pubblico poi la possibilità di fare domande sull'argomento. Quindi io vedo che il prossimo appuntamento, avete fatto già un omaggio agli uccelli rapaci. Adesso sì, sono specie a rischio, insomma. Anche loro, anche i falchi e le aquile. Sì, perché l'uomo riesce a parte che c'è stato un grosso commercio, soprattutto con la Germania, di piccoli di rapaci negli anni 70, soprattutto 80, e l'uomo riesce a turbare l'equilibrio anche di specie che vivono ad alta quota, insomma. Poi avete le notti dell'orso, che sì, praticamente si occupa della scomparsa prossimo, e della ricomparsa sì, degli orsi bruni. Sì. Poi vedo addirittura la ricerca di lucertole e serpenti da proteggere e conservare. Questo lo fate il 25 febbraio dalle Alpi sì, all'Aspromonte. Cioè addirittura sì, abbiamo le lucertole che sono in rischio di estinzione. Ma sì, perché distruggendo i vari ambienti. E poi noi abbiamo questo che farà la persona che farà appunto l'intervento, è un ricercatore che è da noi in museo e quindi è particolarmente aggiornato. Anfibi, rettili e anfibi, in particolare gli anfibi sono a rischio perché vivono nelle zone umide, nelle paludi che sono state in gran parte prosciugate, per cui praticamente sono tra gli animali più a rischio in assoluto in Italia e in Europa in assoluto. Allora, ricordiamo per chi è a Roma, ma anche per chi si trova a Roma, che ogni 15 giorni, il prossimo appuntamento è l'11 febbraio, poi si prosegue il 25 febbraio, l'11 marzo, il 25 marzo, eccetera, fino al 3 giugno, tornano gli happy hours al Museo Civico di Zoologia di Roma. Prossimo appuntamento, giovedì 11 febbraio alle 18, le notti dell'orso. Grazie a Claudio Manicastri del Museo Civico di Zoologia di Roma. Grazie a lei. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a cartellone@radio24.it e vi ricordo che potete riascoltare la trasmissione nel sito www.radio24.it. Una buona giornata e un buon weekend a tutti da Elisabetta Fiorito.